prova. Allora, mi sente? Mi sente? Allora, dai, usciamo e torniamo verso la scuola. Poi eventualmente le do indicazioni, va bene? Andiamo a sinistra, dai, forza. Ok, ti fermi a sinistra. Bello bene. C'è qualcuno? Chiamali! Dammi tu sì! La stavo chiamando Giovanni al telefono, ti volevo dire una cosa. Chiamami! Aspetta! Nessuno! Attento, manicomio! Ehi, hey, you! Strana! Guardato là questo baracchino che ci è arrivato! Luca! Sì, aspetta, grazie, stavo dando una mano a Marina a piegare le lenzuola. Cosa stai dicendo? Ho detto la radio che ti è arrivata, bene funziona. Adesso non ho capito, grazie, che Marina mi ha sovramodulato, dimmi. Ho detto, stavi provando la radio stamattina, quella che ti è arrivata. Positivo. E funziona bene. Sì, ho messo quel microfono, mi hai regalato tu, dai. Se quel baracchio mi hai inviato tu, quello l'ho dato, tanto non riuscivo a farlo andare. Mi sono tenuto il microfono, quello con la batteria da 1,5. E va molto molto meglio quel microfono lì. Ehi, per fortuna che funziona. Allora accesa adesso la 27. C'è Gio Maria che non le funzionava, un rosmetro. Lo sta chiudendo adesso. Sì, già me l'ha detto, dai, me l'ha detto. E mi l'ho accesa adesso anche, la 27. Avessi per la cacca di aspetta, grazie, ma attimo, mi sono pure nella crema, dove sono bruciata, aspetta. Avanti il fischio. Buonasera. Mica c'ho anche la 27 accesa, brucio bosco. Ah, e vabbè. Non è un problema per quello. Ce l'ho anch'io accesa la 27. Guarda se mi senti che ti chiama la 26. Ma dove? Sul 23? Sul 23. Hola! Beh, grazie. Ma a cavaracchino sì. C'ho la 27 accesa e sto parlando con Pompurio. Ma ti mando un avvolto di uno straccio verde, ti faccio vedere le macchie dello straccio che erano nel baracchino. Aspetti, mando la foto. Ok, manda la foto che la guardiamo. Qua ma è arrivato a te sto baracchino. Qua ma è. Sì, è arrivato, tutto pulito, fazia schifo. Ti mando lo straccio anche a te. Quello verde, uno straccio verde pulito che ho utilizzato per pulire il baracchino. Vabbè, dare i scifughi frenando, aspetta. Ma nella carcassa, per carità, pinghinosi. Tutte le manopole pulite, lo frontale, tutto smontato, pulito, eh. I tappi, ma ti mando la foto qua, aspetta. Fammi. Questa la mando, aspetta. Manda perché non è arrivata. Claudio, ci sei. Eia. Quella la parte verde che è pulita, la parte sporca. Per carità, mandi via. In mezzo alla stalla. Sì, ma l'ho tappo, Smitter. No, girare gira bene, perché il microfono suo no, che mi ha dato lui no. Poi mi ha dato il calvettino che gli fa zipietta, proprio guarda, lasciamo perdere ormai. La staffa ci manca, non so, adesso mi procuro un pezzo di alluminio, me la costruisco io. E se no mi uso quella dell'altro baracchino, che sono uguali. E lo Smitter anche, che ho visto, come l'ho aperto è giallo dentro. A carità, cazzo, sei una nicotina. Quello straccio è nicotina, Lu. Quella è nicotina, non è pingo, è nicotina. Questo della mondezza, chissà radio. Cazzo, sta tutto quel pingo c'è. Aspetta che stava parlando Claudio, cosa stavi dicendo, Cla? Ho detto che è tutto nicotina quella. Senti pinginosa. Vabbè, Cla, ma cazzo. Devo smettere, infatti c'è la lampadina gialla, gliela cambio e gliela metto bianca. Che fa a vederlo così fa pietà. Sistema te lo piano piano. Ciao, grazie. No, vabbè, classe sistemata. Cioè, diciamo. Il microfono l'ho adattato, un microfono di quelli amplificati. Guarda, stasera io rientro verso le 8:30 a casa, così facciamo le prove e la tariamo. Ma le prove devi fare con Massimiliano, non con me, no? Io lo già chiedo, l'esperto di sedatio, io... La mia ce l'ho 6 anni, non l'ho mai toccata. Ah, vabbè, a dare un coso, mi dice, un batto. Niente che può entrare. Tu guardi, ma stai a sentare 5 minuti fermo? Fa vedere Luca e fa vedere Nato, cazzo. Grazie, e so come stai parlando. Allora, non fa vedere Dio e si manda fa vedere Edo. Parla quando sei interrogato, cuo cuo, mané. Cescio Maria Gaga. Ma se ne si fa, ci vuoi sta moglie, quello sgassatore. Ci manca praticamente, non so se lo conosci, poi se lo conosci il Typhoon, quelle lamelle che si mettono nei tasti, nelle manopole, no? E una ci manca. Mica quella radio lì, prima di mandarla, dove l'ha mandata Massimiliano, eh? Perché lui ha fatto un'operazione, era qua a casa, la stavo usando io quella radio. È un'ottima la voce zozza, vuol dire che fuori ci danno i vivi, è proprio sporca, faceva schifo, Clara. Faccio vedere le foto, non so se le hai viste, la mascherina, il bordo della mascherina, tutta, si vede che era Rubingo innanzi. Dile a Massimiliano, beh, quando era qua, com'era quella radio. L'attaccavo poche volte, giusto così per farla girare quando me lo diceva lui. Perché lui stava facendo lavori a casa, quindi ce le avevo tutte io le radio sue, tranne il magno, ce le avevo tutte io. E piano piano ogni tanto qualcuno l'attaccavo, ma chissà, era nuova, e c'era tutto, staffa, microfono suo, tutto c'era. Invece questo qua infatti mi dovrò procurare, comprare il caffetto d'alimentazione, che si me l'ha dato quasi schifo, si vede proprio tutto fatto a culo di scimmia, ma non si danno le cose così, mi dispiace. Cioè, se io vendo una cosa, la vendo come Dio comanda, o ti vendo un mondezza, a parte che è sporco. Il microfono, quello che mi ha dato, fa schifo lo stesso. Luca, ha perso di sì. Ma non mi senti, Grazia? Ah, tu Grazia, se la va vedendo Luca, chi li va vedere sopra? Ma perché non mi intendi, Grazia? Ma manca a me, intendi? Un che c'è radio di plastica che va. Grazia, non mi senti? Vabbè, comunque mettetela a posto, Luca. Quella è una bella radio. Io l'ho usata, è perfetta, mettetela a posto, pulisitela bene e usala. Ma lo smetti come faccio a pulirlo? Ma di schifo, si vede che è giallo Trento, eh? Vuol dire che ci fumava sopra, vuol dire che le buttava il fumo sopra, capito? Per carità, ma io sono fumatore, cazzo ve ne ho che le radio mi sono perfette, non si butta il fumo sopra le radio, ti giri la faccia, se lo rampi un gacino che ti sei boghiai. Poi il caffettino, guarda, il caffettino è proprio, come cazzo fa a dare un caffettino del genere, Adesso vado un po', se riesco a trovarlo su internet me lo compro, come Dio comanda, no? Un cavetto così, tutto quanto, fatto a schifo. 5 euro spendi, 5 euro, ti prendi 1,50 m di cavo, ok, rosso e nero, un pochettino grosso, la Fusaro, un portafusibile di quello nero glielo metti in mezzo al coso, al rosso, ok, è il suo connettore che lo vende Fusaro, quello piatto a 3 fori, e te lo fai tu, cavetto nuovo, senza se il truppiato da nessuno, 5 euro spendi. Ma infatti uno l'ho fatto io, ce l'ho a casa, quello del magno, dell'altro apparecchio, no? Quello l'ho fatto io, sì, me lo faccio io, Clark. No, siccome lo vendo originale, quelli praticamente non lo puoi aprire, ecco, sono di quelli stagna, là. No, fattelo tu. Già ho capito, sì, sono quelli dell'Alan 48. Ti ruba e tu, ti prendi quello bianco, c'è anche nero lo spinotto. Capito? A 3 fori. Lo apri, metti bene i fili dentro, saldati bene che non si stacchi, non ce ne sai fare queste cose, te lo fai tu. Ti compri il portafusibile, costa 1,50 euro, nuovo, nero, di quelli a incasso, no? Di bianchi, di plastica, lì si incascio, niente, ti metti quello lì, che ci sono i fili che entrano dentro e si stringono col cacciavite, sul positivo, e lo fai bene tu, e te lo fai a misura tua, a piacere tuo, col cavo grosso, in modo che l'assorbimento sia giusto. Ce l'ho uno di quelli a casa, ce l'ho, nero, sì. E metto quello lì. E allora, fai una cosa fatta bene. Fai una cosa fatta bene, capito? No, io sono in campagna. Adesso fra un po' però me ne vado, capito? Quando entro qua sono solo in campagna. Aspetta, mi stavo chiamando, vediamo un po' chi è, forse la vota, fa una specchia. Graziano! Attento, Graziano! Solta balla, che? Attento, Claudio, lo santo detto. Chi è? Forte, Claudio, buonasera, ben ascoltato dopo tanto. Vacchisio, vai! Ciao, Vacchisio, dove sei, campagna? Vacchisio, in campagna, sì. Ehi, Claudio, in campagna, in campagna. Ehi, ehi, e allora è per quello che ti sento bene. Vabbè, ci sentiamo dopo, dai, che mi andando pure a casa, anch'io sono in campagna, cambio. Ok, va bene, Claudio, ho sentito solo per salutarti, ho sentito che eri lì. Benissimo, saluti ancora Claudio con la buonasera da Bacchisio che passa in QRX perché sono in BM in movimento. Ciao a tutti! Ciao Bacchisio, un abbraccio, ci sentiamo, stammi bene, grazie per i saluti. Eccomi qua. Va bene, mi stai ascoltando, Cla? Sì, qua ti ascolto benissimo, il 27 ti ascolto molto, molto male. Molto male, tu. Anche con il ricevitore qua arrivi male, devo essere chissà antenna. Oh, qua in PMR male mi ascolti? No, oh, benissimo, alla grande, perché tu male mi ascolti? Ah, ci sei perfetto, cosa? Cazzo, pari sotto un gas a Bari. Ehi, ehi, ehi, è un X300, cioè quelle piccole. Adesso fra un po' me ne torno a domo, Poggio, Giovato, Brudruppu, giornata bella, fresca, sono messo a fare un bel po' di cosette. Ho capito, perché dove sei tu? In campagna. Ah, in campagna, si andava. Vabbè, se ci siete dopo, là, verso le... se ci sei magari, così mi dai un coso, un tuo parere, se va bene. Io mi ascolto e esce bene, poi sono in trasmissione, col microfono che mi ha dato lui, quel tipo fa zigagà, dice che è un bel nasino alla radio. Invece con questo microfono che c'ha la batteria da 1,5 che è amplificato, esce molto molto meglio. Oh, vabbè, dopo lo proviamolo, no, qua c'è solo le V e le U e basta. Solo V e U, capito? Non ho giù il boniastro, non me la fotti nuda. Va bene, va bene. Ok, Lugariera, ci aggiorniamo dopo allora. Mi è entrato Bacchisio a salutarmi. Mi ha fatto piacere, da tanto che non lo sentivo, dai. Ci aggiorniamo dopo, Lu, che mi dice che andendi. Andare, a dopo, Cla, ciao. Ciao, e continua a pulirlo. E poi lo Smith già lo sai smontare. L'hai anche cambiato il tuo Typhoon. È facilissimo da togliere quello. Sì, ma sicuramente anche là dove c'è il lago lì e si vede che è giallo. Mappa che schifo, cazzo. E cosa ci vuoi fare, Lugarie? Non tutti sono perfetti. Quando mai uno che fuma, cazzo, ha di lampare un fumo in alto del radio? Oh, le dizioni in culo, lo fumo. E invece di buttarlo sopra le radio, una cosa impressionante che... Cla, io quando vendo un qualsiasi cosa, un telefono, chi su chi è, lo buro, beh, non do una cosa tanta piena, brutta e zozza, no? Ma non si, come fai? È come se io vendo un computer con la tastiera tutta sporca. Ma non esiste, lo pulisco bene, poi lo guardo bene, mi vedo che è pulito, e gli metto anche un pezzo di qualcosa che, come si chiama, qualcosa in plastica che scoppia, dai, di quello, e dopo una cosa fatta, beh, come ho sempre fatto, non ho creato una cosa pinghinosa, ma non esiste, da parte mia non esiste. Già ti conosco, Lu, non ti avessi conosciuto, ma ti lascio detto, non tutti sono perfetti, io sono peggio di te, già lo sai, quindi... Canto radio a gioventù, quante cose ho fatto e ho dato. Non venne di bingo e di via con nicotina nel radio mio, perché io non fumo sopra le radio. Mi allontano, finestra aperta, il fumo lo butto fuori. Se tu lo butti sopra le radio, se lo prende all'interno diventa un pasticcio, diventa una cosa schifosa. Capito? Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, cappa. Qua sarò disordinato, quello, senza ombra di dubbio, ma che cosa mi tengo un bel, va boh, a dopo, Clara. E si conferma, Lugarie, tranquillo che si conferma, ciao. E io, ciao, Graziano. Fogu, fogu, fogu, fogu. E beh, grazie, falato, sì. Attento, manicomio, a ci sei, mormita sì, e io. Bella bei. Attenta, buffetta! Ah, mi senti, o te devi lavare la reci, Luca! Bella be, e io! Ma mi senti, grazie? Graziano, mi senti? Graziano, mi senti? Luca, non stai uscendo al PMR. Luca, non stai uscendo. Mi senti? Prova, prova. Adesso ti sento, non stavi uscendo poco fa. Ehi, Giomari, stavo rispondendo a Luca che non stava uscendo nel PMR, adesso sì. Giomari, ci sei? Vai a Giomari, grazie. Nella 27. Aspetta, Giomari, è nella 27, Giomari. Non ce l'hai di lì la 27, Luca? Sì, la sono in camera, dai. Accendila, la 27, che ce l'ho, la 27 anche io accesa. Ehi, you! Ehi, Lu! Non l'hai accesa la 27? Grazie, sono qua. Pure i zanzarieri entrano l'Ubivo, capito? E io entra lo stesso, la polvere, zanzariera, e con la mente l'Ubivo entrano matteci, vero Luca? E io Luca, accendi la 27. E io ma sto uscendo 2-3, prova, 1-2-3, prova. Adesso stai uscendo, ma tu la si accendeva il display e non ti sentivo. Ci avevo visto che... Infatti ha detto, ma mi dice chi c'è Luca, va, quando ti ha chiamato, che mi hai risposto. Si è acceso il display, però tu non ti sentivi. La radio è però qua era accesa, ha detto, non hai scendi. E che c'è in pantaloncini con chi c'è specie di tatuaggio? Che tatuaggio è? Ma non si vede venno, troppo scuro. E cosa? Quel tatuaggio che c'ha nella gamba lì, cioè se ti punti e lo guardi bene già si distingue. Però a prima chitto non si distingue. È vero. E allora? Chi te l'ha mandato? Luca Flipper. Flipper non te l'ha mandato. No. Ah va, ve lo manda, sì. Allora, Luca Flipper. Ah va, lo mando pure a Marino. Mandata a Luca Flipper a Marino. Così impara. E beh. Ok. Cado, che fa, grazie? C'è troppo vento, la finestra l'ho chiusa. E ne è tra tutti rubi ubaru. Tu già c'è il condizionatore. E ce l'ho anche io il condizionatore, ne aggiungerei. Però si sta bene, là, non c'è caldo caldo. Cioè, stamattina già ce n'era, adesso no. È ventilato, là. Ma che facendo già? Sto parlando con te, con Gian Maria, me. Gian Maria, senti a Luca, digli qualcosa, Luca. Gian Maria, ma che facendo già? Tu. Bubu. Mi fa piacere questa roba nuova, cos'è? C'è roba nuova, Luca. E che roba nuova? Io ho sentito poco fa Graziano di quella roba nuova, provata l'hai. Ah, il baracchino, Gio Mario, stamattina non l'hai sentito. Ma nuovo l'hai preso? Ah, cosa nuovo. E poi ho un pingo in naso. Ma ce l'hai lì dove c'è adesso? No, a casa di mamma. Qua non lo posso attaccare che c'ho stazionaria a tre. Cosa guarda quello brucito a voi. E disinfettato là, è Luca. Chissà un pinghinoso che vi la piglia. Pulito bello, lo sgastatore, la maschera l'ho smontata, l'ho messa nella bagna d'acqua calda, fregata bene, lusuccio erano i lavandini. Lusuccio, pare un brutto baria. Ma per carità, non mi racconto la telefonata di principi, la mia, mentre se la batto mia, ora vive, in oggetti tu vivi, per carità, pinghinosi, continentali, per carità. Salù! Zio Maria, mi hai sistemato quella cosa là? Il comandante, un chisso era il comandante, no? Positivo. Stava uscendo bene, stava uscendo bene. E io ben arrivato? Bella la radio tua, bella, bella, chiara, bella, bella, bella, proprio bella. Quello è un gioiello. Roba nuova, però sto usando poco e niente. Qualche volta lo accendo, ma raramente. Bisogna usarlo di più, se no un macello, a voi magari quasi vi rifreghi su. È un peccato, capisci quel cammino di là. Zio Mari, sistemato là quel rosmetro. L'ho provato, ma non mi convince, capito? Non mi convince, lo devo far vedere a Luca perché l'ho provato anche sul grande. Ho visto che già funziona su grande, sui piccoli invece no. Adesso devo vedere un po' se trovo il deplia suo, se ce la fa quattro fatti, capito? Perché per l'apparecchio grande, quello lì l'avevo preso, capito? E per il baracchino non lo so com'è, bisogna trovare lo devo cercare. Il deplea dopo lo a Luca e me lo controlla. No, mi sa che quello lì è 5, 20, 200. Esatto, esatto, c'ha 5, 20, 200. Sì, 5, 20 e 200, sì. Quello è quel tasso che dalla fetta che non mi convince tanto. È sempre fermo lui, è 3 o 4 anni fermo, forse anche di più. Ho capito. Boh, faglielo vedere a Luca, ma non c'è niente. È nuovo, nuovo, mio, è nuovo, nuovo. Cioè il 600 e il 200, capito? Così che ho provato anche il 600, 600 è proprio per quell'apparecchio grande, ho visto che la funziona. Quello là, quello il 200, no. Sì, le stazionate, le misure, l'acqua a fondo scala va, però quando lo metti per parlare non sale l'acqua. Perché? Boh, non lo so. Ma le stazionate tra le misure, sì. Grazie. E vuol dire per funzionare per il grande quello? Non lo so, bisogna. Devo cercare, dopo lo cerco infatti, dovevo prendere tutto in DPA, capito? Bisogna controllarlo. È un peccato perché nuovo, capito? L'avevo tolto perché non ci avevo posto, capito? A lasciare sopra, intanto quando lo pulivo lo spostavo e non lo buttavo in terra, capito? E allora l'ho tolto e lo lasciavo così, l'attaccavo solo quando dovevo misurare le stazioni e basta, però lo toglievo. Vabbè Gio Mari, essendo anni e anni fermo, Mari, quello per i contatti. Buon chiodato. Se funziona, la controlla Luca, capito? Cioè funziona, se no non te ne do. Io quando do una cosa deve essere perfetta, se no non le do, capito? Per cui, ripeto, è da un po' che non lo usavo, più 3-4 anni, di più pure, che non lo uso, ecco, faccione. Adesso vediamo un po', già la controlla Luca. Così che, ripeto, se funziona bene te lo do, se no non te ne do. Chiaro, no? Gio Mari, come se io ti devo prendere una cosa, se funziona bene, se no non te la do, uno. Cioè, ma funziona male e mari, al limite... me lo metto su di una parte e me lo compro nuovo perché serve tanto, capito? Ma così io se faccio così, se non va bene non le do, ecco, non voglio che da voi mi dica ma è dato, no niente a fare, cioè perfetto, trovo, se no niente a fare, tutto lì avanti, bello bene. Ma non penso che sia 4, no, a chi l'avremo magari vorrà fatto funzionare un po' e si riprende. Noi che si faccia uscire la zona, no? E poi io non le tocco, perché nuovo non lo tocco, aprile non lo tocco, capito? Dai, finalmente gli assarraggia Luca, dai. Lo controlla lui e domani passa e se lo porta via e lo controllo. Bene, bene, bene, bene. E così è lui. Ah, sta serio, da parecchio lo sentivo, un metallino che non lo sentivo e oggi si è fatto sentire. Allora, praticamente gli ho detto, guarda Stavvini, se mi stava meglio, devo bruciare un po', no? Praticamente, niente, sa, dice che lui era da un po' di tempo che lo voleva piazzare a casa sua e poi si è deciso e stava piazzato. Comunque diciamo che gliel'ho messo in testa io, dai. Oh, non lo stavo riconoscendo, oh, ma anche a te stavo riconoscendo, perché da con Gala si ha un altro tipo di voce, più mi sembrava una voce, un'altra voce diversa, capito? C'era la tua, anche quella di Saverio, se non avrei sentito che era lui non l'avrei azzeccato, era proprio Saverio, ripeto. La tua magari dopo un po' l'avrei riconosciuta subito. Perché cambia la radio, capito? Da questo a quell'altro cambia il timbro di voce, capito? Eh beh, certo. Cambia la timbrica. Certo. E dopo poi vado a fare delle regolazioni, magari me lo segno o lo lascio così com'è. Perché nei canali alti ho stazionari a 1,5, poi fuori da 22 watt, mi sa, se non mi ricordo quanto mi ha detto. E vabbè, dai, avanti, grazie. Ma Saverio non abita a Ussini? Negativo. Prima abitava in un paese a Ussini, mi pare, non mi ricordo. No, a Ussini, mi pare, se non mi ricordo. E adesso abita a Sassari, abita vicino a me. Abita esattamente vicino a Franco, California. Ah, e io mi ricordavo che abitava a Ussini, che se n'era andata a Ussini quando ha conosciuto la ragazza che ci aveva, praticamente la moglie. Ah, se l'ha rimessa, lo vuole rimettere in funzione, adesso abita al monte, vicino a casa tua. Vabbè. Meglio così, magari qui trova più lavori. Ciao lui. Abita vicino a California. E anche vicino a me, dai, non sono molto lontani. Ciao lui. Gio Mario. A quale attende che sopra farmacia sopra? E di chi è? La mangio sopra la farmacia. Tu bei beni, di Alessandro. Bella dritta, è sempre nuova, perfetta, ma chissà di sarai saltella, boh? Sì, intanto non mi serve più nulla, non c'è più niente, adesso dico se la fai in soldi, dico quanto vuole, vado e me la smonto. Bene, se non la sta usando nessuno, Sai, è un peccato perché l'antenna è nuova. Oh, è un bel anni che la vedo l'antenna lì, sicché già si vede che c'era, dai. Sì, ma è nuovo l'antenna, la usiamo fra 3, 4, 5 anni. Io dovrò regolare la mia, Gio Maria. Speriamo che la spirale riesca a mollarla. A sollevarla un po'. Praticamente dal bullone alla spirale verso l'alto va a 7 cm. Se ci riesco, bene, se no pazienza, su sì. Okay. E quello che abitava più su di te, come si chiamava? Aspetta. Cazzo importantissima, sempre per la portate, aspetta come si chiamava, papà, aiutami a dire, vedi da uno che c'ha più sopra di te. Ma che Ottavio, Gio Mari. Ma è Ottavio, via, sta già per cui. È Muscio, io non la dico, è Muscio. Allora lì si è lasciati qui con Luna Rossa, ci ha invitato a casa sua così per prenderci caffè, ma cavato un prosciutto, ha cominciato a affettare, a poco si ha fatto una sera, gatta, e anche il vino bianco ci ha fatto bene. Allora, siccome Gli ho chiesto alla moglie, c'era l'antenna sul tetto, l'ho presa quella, l'ho tutta pulita e sfatta, poi l'ho regalata, ce l'avevo buttata nello sgabuzzino. E gli ho detto se c'era qualcosa che gli aveva avanzata, lampa tutto, baracchini, alimentatore, tutta all'autoparco. Avrà dato tutto. Aveva preso un baracchino da lui, il corso Vittorio, Luna Rossa, capito? E la sera siamo stati a pigliarli, capito? Però già lo conosci, io lo conoscia così a chi caccia. C'era sempre tante cose, era il telefonato anonimo, fazia, era Seppiedo. No, sono in Appadututu, all'autoparco. Poi io passando lì, stavo passeggiando con il cane, ho visto che c'era un'antenna appoggiata al palo. No, al palo no, alla fluviale là, della strada lì, vicino a casa. La PLC 800, me l'ho presa. L'ho portata a casa tutta pulita, però non riesco a buttare giù le stazionarie. Ok, va bene anche quello lì. Vai, grazie. E magari vuole regolata, vorrà controllata bene. E cosa ne so? Non lo so, no, lo so. Vabbè, comunque. C'ho tre sili anche, niente, sono cambiati, nulla, sempre a tre. Eppure la carica è a posto, l'ho aperta e a posto, non è manco ossidata, E dillo a Luca Flipper se te la guarda, che lui la costruisce, magari se lo trova il difetto. Ma il padre Piacco la ciacciappa lui. Sì, Giulio sì. Il sacribuccio adesso così non lo vengo. Era sempre un po' traslandato, era sempre. Ho capito. Vabbè. Ma non va più nuda, mi pare. Ma si è venduto tutto. Vabbè, un po' di niente manca, Gio Mari. Quelli vecchi, più vecchi, siete voi e siete rimasti ancora. Gli altri sono molti, non sono più in trendy. Un bel viso più, faccio. Forse siamo qui a... I 27 che ancora sono qua vivendo, che te, yes. E i 52, i 53 sono entrati io, I 53 anni sono entrati io lui. Vabbè, Gio Mario, avanti, grazie. L'altro sarà in modulenti, nell'aldilà, cosa ne sai? No, che stai alla bocca del marchino a Viale San Paolo. No, chi vi hanno nuove attrezzature, tutto moderno, noi come te no, che noi siamo preistorici. E chi dà tutto moderno, Hai ragione. E allora, mica vale le radio, lì c'hanno la linea diretta, continua, vero Luca? E facili da un pianeta all'altro, me lo vedi? Sì, sì, dai così già, già, per carità, già andaggio conosciuto le due, grazie, Gesù Cristo, magari... magari c'è di poco, siamo tranquilli, magari se ce ne fa 21. Invece prima, da Mazzalunghisse, tutta la notte, per la sempre tutti i canali occupati. Uno buttigliente più dell'altro, che erano più forti. Che ci cose non succede di più. Ormai come tutte le cose vanno a morire. Tu forse hai mai visto più un piccino giugheni a Tappini, oppure mica mi so cubinenni, o a Ruggiappo in carriera. Non rivedi più i giochi così, e così sono i cose. Mano a mano che passa il tempo, tutto cambia. A chi sei convinto che fra, non si manco assai, fra una decina d'anni, ma che la benzina viene più tutta batteria. Allora, come c'è i telefonini, no? Cazzo. Ma si dobbiamo intendere, cazzo, a pigliare sui telefonini, no? capito? E da voi state, insomma, e da voi morire di fame, cazzo, che non avete la parola a chi ci avete preso un telefonino buono. E allora, non di casa è fra una decina d'anni, vedi macchine a batterie, ma con rombo di rumore di motore, intendi più. A chi funzionerà sia le macchine, le moto, tutta batteria, a correnti, boh. Quando passano le macchine manco le intendi e non fanno inquinamento acustico. Ciao Mari, vero lui? Esatto, e vabbè, ma purtroppo motori a scoppio inquinano, capito? Meglio quelli elettrico, inquinano meno malattie, lo so, purtroppo fa male, Lo so, i motori non si sentiranno più, male le macchine da corsa quando fanno tipo rally, così, quello sì, poi saranno a scoppio, sempre si esiteranno, ma non che faranno anche le macchine da corsa a batteria. Che l'ha già fatta vedere, la Ferrari, testa rossa, a batteria, la stavano provando anche, l'ho vista al televisore, quel programma PMX mi pare di chiama, dei motori, e hanno fatto vedere Ferrari a batteria, allora era un razzo. E l'ho vista, grazie, già l'ho vista, e la foca del macchina, tutti elettrici sono scelti dalla maggior parte, cazzo, la Hyundai, ma stessi, cazzo. La Peugeot, anche la Peugeot uscita adesso, certo, non so quanto guccia però, faccio 225 km cazzo, una carica di batteria. Ma non hai visto un telegiornale, un piazzale di concessionarie di macchina, la fabbrica Brucchi, un piazzale enorme, ma enorme, tutte macchine già fatte, tutte a batteria, hai compreso? Tutti i macchini da portare alle concessionarie a vendere, adesso non mi ricordo che marca era. Certo. Certo che sarebbe migliore là, meno inquinamenti ci abbiamo, così che è una cosa molto perlomeno. Prima magari quando sono cominciato a uscire tutte queste macchine cazzo, potenti, cazzo, a benzina e a diesel, cazzo, non hanno pensato all'inquinamento, ma basta pensare a che mi dice troppo, cazzo, troppo macchine, so, inquinanti tutta l'aria che respiriamo. Ma io ci credevo prima di un brevissimo. A parte quella, la plastica, ci sono isole, non l'hai vista la TV, quel programma. Ci sono isole formate da miliardi e miliardi di plastiche, di tutti i tipi. L'ha fatto vedere la televisione, in mezzo all'oceano. Pare un'isola invece è tutto plastica. E allora, e siamo noi Mattesi che le bruttiamo romani, gatto. Già lo grido, amici, il rubescio, mangiano questa roba, plastica, pezzi di straccio, e crepari, e anche quello, così che è tutto inquinato, il buon mare è inquinato, vuoi immaginare all'esterno, oh yeah. Luca! Gio Maria, lo scarico delle cose, del vino, quello che mi ha detto, non è quello che ti ha detto, non sarò manco quello che ha detto, però, purtroppo noi con il tempo buttiamo tutto dentro il corpo, aspiriamo tutto, poi arrivano le malattie. Faccio proprio così, Oh, andate a male, ce lo fa al magazzino. Ha già attaccato il suo motorino, che faccio, no? pensavo come state in Nanto. Ah, che la prima volta a Cavanira dal magazzino. Pensavo come state in Nanto. E la si mostra in marcia un quarto d'ora che siamo a Torino. Ah, sai che tu cammina. Ah, 25 chilometri quasi, eh. Però a cavallo fuori ancora c'è qua a cavallo, lui. Le batterie. Perché quelle lì sono batterie al piombo, capito? Si rovinano. Vabbè. Magari tu. Posso. Che manzano, chissù, per la capo, cazzo. E mi posso dire di no che a fa la capitale un po' qua da dentro, però, non mi allontano. Oh, che mancano abito. Perché questa cosa l'ha giubilata a fare, cazzo. Però, cacchi gesto, me la parla già fa pure, boh. Oh, yeah. Vabbè, cacchi sempre, tappato sempre, E sempre lucida, È bella, bella, è proprio bella, Cattolica. Va bene, infatti. Se può cambiare la manopola dell'acceleratore, di capo, l'acceleratore a mano. La posso cambiare a pedale, capito? Perché se ti trovo con l'acceleratore magari è la punta o te la sequestreggiare, capito? Invece quando non trovano l'acceleratore a manopola sei tranquillo, capito? Puoi circolare tranquillo senza avere nessun problema. Sì, già cammina un bene a pedali, Ma se tu vedi un amanzano, piglia la volata invece di scissi a sopra, si fa la volata e roghi, davvero vedi, basta dalla salatura, e già è veloce, e chi ce l'ha trattata di un aereo, e cammina buio. E tu lo vedi, cammino, non ha tanto i muovi bene, è dato una pedalata, e pompa. Se camminare, non so che cammina, infatti, tutto l'altro cammina. 25, massimo 26, non di più, grazie. Ah, cammina già, cazzo. Ma è meglio che andiamo piano, capisci? Anche ad un cuore è pericoloso. Specialmente andare via, di male posso andare, cazzo, che troppo 25. Sempre che mi venga la gara di Cavanira a provare la torre, pura. Anche la ci ho provata solo una volta, pure, basta. Ma un giro mio, ma l'ho fatto 50, 100 metri, non di più. Così, ma sono coperto di camminare in magazzino, mi sembra con sopra, e cammina così. Ma cosa, la voce c'è di Luca, ti fai tutto quel tratto, risale, oppure poi al rientro ti fa il viale, dopo la chiesa, lì. E la fai caricare un po', ma se no così ti si gribba nel mare. E un po' cura vai andare. Adria. Vero Luca? No, cazzo, ancora no. Ancora va, vediamo un poco, va. Ah, ma magari fate troppo caggio, non si basta che fate troppo caggio, lui. Presto bisogna salire. Adesso le 7:30, ragazzi, a misura bisogna alzare. Ah, va, prima che se non andrà male chissà signora. Un sabato. Ciccio, a tempo. Anzi, travaglio un'oretta, non penso che poi di più, ci abbiamo tre tirate e saremo qui subito, boh, basta. Ah, tutto pronto, è tutto pronto, vedi quelli di terra, saltai subito e assassina, boh. Di sabato, mattina presto, al presto, sì. E dopo la nuca. Se la vera fai bene, fatta bene la cosa. Quello sì, se a fermo fermo una cosa come ti si vivi, no? Infatti, a chi va passaggiare su questa, ma uno non può mettere quello goddo l'antenna che non la faremo. Passiamo la sacala, la poggiamo la cala, canti canti salzendo, hai capito? Al banco, per mare una mantenere quello goddo, capito? La sapete, se la sacala, la appoggiamo in la cala e noi andiamo tranquilli a Pacino. E vabbè, che siamo 2 ore, però bisogna fare una cosa per ti dici. Allora, se tu passi via Poggio, la paese abbastanza ridussa, però non faccio veramente a chi non la buoni ma puzzo, Non per fare da chi si mette a fare ultimamente, non li farà più, sicché finalmente che lo assemo, ma lo assemo così. Venerdì 36 gradi, il rosso sta segnando. Poi sabato e domenica più fresco. No, in domenica no, non fermo niente, la domenica faccio per riposare e basta. Noi ce la fermo, ci troviamo la fermo, poi sabato il 30 di ghita. E va a finire un po' qui, devo fare pure in campagna, guarda. Che c'è anche in da che a manco una torrata in mezzo bisogna farla, bisogna pulire, è qui che è cresciuta troppo erba, bisogna tagliarla, così che bisogna farla, alla manco sono tranquillo veramente a ottobre, novembre, capito? Bisogna farla, ma vediamo un po' chi c'è chi da dito si verrà fermo, speriamo. A che cosa vuoi mancare più alta e più travaglio per, capito? Gio Mario, sai cosa ti conviene, aspettare, ti pare così ma fermo. Sembra così ma fermo. Grazie, mi dà una mano pure, dai, tu vai bene, grazie. Dimmi. Che ci viene a darci una mano per questa lanterna Gio Maria? Mamma, così, non mi posso assai, no, sono la mia, c'è un bambino qui che è tutto da ratto, figurati che ha da Gio Maria, no, non fa, non c'è il rischio. No, metto la dritta alla bottola, no, lui, un graziano, non mi basta la dritta alla bottola, no, che lui è troppo grosso. Cazzo, sto cazzinando come te lo cose, no? Ma poi non mi basta, tu. Ma no, su, da me che già l'hai visto che è tutto da razzo. Figurati che asso i vivi. se abbiamo tutto da razzo come te fai tu, tutta la sua l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto il trabaglio di rubare quella carrucca dentro la piazzata. Abbiamo avuto un altro malo. Aveva attaccato la carrucola, l'aveva alzata, è parata a raggiungere. Ma da me non si può fare per chi non fa appoggio, da te è vero appoggio, può lavorare tranquillo e pacifico, capito? Capito lui, grazie a Rofi Basta e la bottola. Gio Mario, ve la laghiamo un poco. Salvo che lo pigliamo la gru e attacchiamo, li braghiamo alla zitto, la tirazzemmo. Ma io non basta che faccio questi problemi, e da poi non la giugana, la dici me, la giugana che mi butto io a asso. Non è sempre che mi ci sono 2 mesi con questo fianco, pare che faccio un cucchietto, un vecchietto, boh. Bisogna dare rovaggio, bisogna appoggiarti a te, basta già per rovaggio, mi pare che no, Se io ti abbia appoggiato da rovaggio a parte la rettifica. Eia, se tecnica anche l'uno, il avvicinetti però è spostato, mi pare la voce di Marchisio. No, il 23 non fa Marchisio, E in banda laterale sono. In banda laterale, a che sentiamo loro? Non si comprendiamo, infatti oggi ci sarà pure frequenza. Non se ne può un baccano, E poi sono in banda laterale. E viene uno in FM buro. Infatti già si sente. Beh ragazzi, io chiudo là. Ce la sentiamo alla prossima. Ciao, ciao Luca, ciao Gio Maria, ciao chi è in ascolto. Alla prossima. D'accordo, grazie, ci sentiamo. Va, buon proseguimento, saluto di casa. A domani se coincide, ok. E domani accende sempre la 27, buru, gatta. Fallo camminare. Se c'ho poco da fare, già l'accendo. Va bene, ciao, ciao Luca. Ciao, grazie, sotto la Paoletta anche da parte di Maria, dai, ciao, buona cena. Ricambiato, ciao ciao. Via, ciao ciao. Cosa? È bello, non sei sentito. Sei travagliente, Gio Mario, è fin di cosa. Comunque mi ha riferito che bisogna salire presto, perché altrimenti il catrame scalda e lo danneggi. No, non è così. Ma invece a che preda, lo buchi e poi va entrare Eva. E infatti allora. Ciao Marco, Gio Mari, fatto fatto, non mi pensi più. Cioè, stai lì con il pensiero, poi arriva l'inverno di nuovo. E oggi la metto di cattoli, capito? Te lo fai, sei più tranquillo e sereno. Trancuri bene, mettiti tanti che devi mettere e sei a posto. E poi le devi fare in quel dove tu inserisci il palo dell'antenna, un foro per far scorrere l'acqua. Quelle cose bisogna fare in tempo buono, capito? Certo non si fanno, ma boh, parecchia gente fanno le cose, boh, i tempi non adatti, capito? Ma certo, i tetti bisogna farli in questo periodo, perché almeno tempo bello e asciutto, e puoi fare tutto quello che vuoi e attacca benissimo, mentre quando in inverno no, come fai? O piove o c'è vento, lo puoi lavorare, mentre adesso si può fare tutto quello che c'è da fare. Almeno in inverno sei tranquillo, vai. Ma poi sai com'è, no? Che se arriva quel vento forte magari già è cucata, pare ricche che te la cocca ancora di più. E vai, rischi anche di romperti la quarantena, l'altro già non costa nulla. Costa un bel... Cioè, cosa la sta vendendo? Mi sa video. Perché tanto la mamma non modula più. È nuova la sua, La mia non è nuova, non è vecchia la mia. Guarda, mi sa che 78 anni, non di più, mi sembra, È nuova ancora. Per cui... cammina, ma... l'unica voce che alza e basta, da voi lo faccio più, avare poco le corde di quelle grosse, invece che deve essere tranquilla l'antenna. Non si è mai piegata, mai, da quando ho il baracchino non si è mai piegato l'antenna da me, mai, perché l'ho ancora, sta sempre bene. Chissà volte perché ho messo tre tiranti che erano di quelli alla sticcavano quei tiranti, e ci sono ancora, ma quei tre li devo buttare fuori e mettere quella corda grossa di mare, capito? Che ce l'ho già pronta, metto quella ed è tranquilla. Prima avevo le corde metalliche, però le corde metalliche non erano adatte, capito? Perché si disturbava allora. Ecco perché non torno. E non si è mai coccata, vuole fare il depuratore, non è mai parata quella corda metallica, Cattia, non si muovia manco. Ah, ma è chiaro che leggermente la segheggia e si muove l'antenna, però se c'è la corda buona come quella che ho preso, quella lì non la segheggiano. Mi sei tirata bene, la rimuovi domani, Ma infatti no, è là, no, va bene. Ma quella che abbiamo messo noi, intendi, quella lì? Quella che avete messo voi, quella lì non servono, gli altri che erano, le altre tre, quella era più grossa, era quella di mare, quelli non la stiche, ma quelli avete messo voi ultimamente, quei tre tiranti, quelli bisogna cambiare, che ce li ho già. Precisa quegli altri che ci sono, capito? Quelli no, questi qui che ci sono non lasticheggiano, sicché si avete molto buoni, ricavoli, buco, tre nuovi, per cui facciamo una cosa ben fatta, capito? Sì, se tanto con l'antenna lì, una volta che tu stai, grazie, come Dio comanda, quella se ne muore lì, Giovanni, se ne muore. Poi la corda, quella che usano in mare, quella è resistente alle temperie. E allora, cosa? La voce la facciamo bene, basta. Non mi immaginavo che la sticcavano con il tirante, capito? Ecco perché non la fa troppo, capito? Sembrava che stava scendendo, ma non era scesa stesso, capito? Però non la fa troppo, invece quando sono tirati non la sticcheggiano e rimane, non si muove l'antenna, rimane ferma e bassa, capito? Vabbè, già c'ho tutto pronto, per cui appena che possiamo, che ci abbiamo tempo, saliamo e la mettiamo a posto. Ok, Lu, dai, ci vedo anch'io, vai, ci sentiamo domani. Saluto Riccardo e ci sentiamo. Ok, Lu. Nia, ciao Giovanni, dai, sto contraccambiato. Buona cena, a domani se Dio vuole, dai, saluto in casa, ciao, ciao. Ok, ciao, Kido.